Giovani Talenti. Giovani Talenti di Sergio Nava. Buongiorno e bentrovati alle puntate estive di Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Da luglio a metà settembre vi facciamo riascoltare alcune tra le storie più belle e significative andate in onda nel corso dell'ultima stagione. Storie di giovani espatriati al lavoro ai quattro angoli del pianeta. Storie di under 40 che ce l'hanno fatta e hanno un messaggio preciso da lanciare all'Italia, paese che hanno lasciato in cerca di migliori opportunità. Tra poco ascolterete qual è questo messaggio. In questa puntata vi portiamo nel mondo anglosassone con due storie tra loro molto diverse. La prima di un imprenditore innovativo, autore di una straordinaria exit oltreoceano con la sua azienda. La seconda invece di una giovane che, oltre Manica, ha trovato un inaspettato sentiero di crescita professionale. Il giovane startupper è tornato nel frattempo in Italia per partecipare alla ricostruzione del paese. Partiamo con la sua davvero straordinaria storia. Nome: Vincenzo. Cognome: Di Nicola. Età: 34. Città di origine: Teramo. Studi: ingegneria informatica. Anno in cui hai lasciato l'Italia? 2003. Per andare dove? California, San Francisco. Perché? Per migliorare. Quale lavoro svolgi attualmente? Progettando una startup nel mondo delle valute digitali. Dove? Milano. Sei tornato, resterai? Sono qui e spero di rimanere. Stay hungry, stay foolish. We've been on the run, driving in the sun, looking out for number one. California, here we come, right back where we started from. L'Italia non è ancora il paese dell'innovazione, tuttavia ho sperimentato un potenziale enorme tra i giovani, anche superiore a quello della Silicon Valley. Basterebbe solo più coraggio e fame di creare o cambiare, comprendendo che la scienza e la tecnologia sono lo strumento migliore di affrancamento culturale e sociale. Così Vincenzo si concludeva la tua lettera a Giovani Talenti, lettera che rievocava lo Stay Hungry, Stay Foolish di Steve Jobs. È tempo allora per i nostri migliori giovani di tornare a casa e fare la rivoluzione? Sì, basta pensare alla Cina, fenomeno delle Sea Turtles, tartarughe marine, che fu appoggiato al governo cinese e consentì la creazione di compagnie come Baidu e tante altre, che ha rivoluzionato poi il mondo economico di quel paese. La tua è una storia veramente da film, Vincenzo. Storia che ci insegna come l'unico limite al successo siamo alla fine noi stessi. Nasci con l'America nel sangue, merito di tuo nonno, perché? Sì, io porto il nome di mio nonno, che fu minatore in America, nei Monti Appalachi, nel 1921. Emigrò in un tempo molto diverso da quello attuale, però mi ha insegnato molto ad andare avanti, credere nelle mie capacità e non lamentarsi mai. Anche per te tutto comincia con una migrazione da Teramo a Bologna per studiare ingegneria informatica. Perché una scelta così tecnica? A me piace Bologna perché è l'università più antica del mondo, piace anche la storia, quindi mi piaceva proprio pensare di studiare dentro mura, dove si è fatta veramente la storia della matematica e di tante altre discipline. Il tuo giudizio sull'università italiana e i suoi professori sono tutt'altro che lusinghieri. Arrivi a definire il metodo di insegnamento come filosofia dell'ingegneria, tanta teoria, poca pratica. Cosa non funziona? E qui potrei parlare per anni. Si fa davvero tanta teoria, troppa, libri imparati a memoria, veramente di cognizioni pratiche tendenti al nulla. Per dire un esempio, ho preso un esame di reti di telecomunicazioni in Italia. Una volta andato in America non sapevo nemmeno come collegarmi a un computer remoto. Voto alla nostra università da 1 a 10? Se Stanford MIT è 10, quella italiana direi 3. E poi se ne vanno tutti, da qua se ne vanno tutti. La vita, perché di svolta si tratta, arriva nel 2003 con un programma di scambio studentesco all'Università della California. Riesci in due parole a trasmetterci il profondo cambio di mentalità che hai sperimentato oltreoceano? È filosofia contro ingegneria. La cosa che si richiede è che lo studente porti a termine progetti pratici funzionanti, perché quello è quello che un ingegnere deve fare, non imparare le note a piedi pagina di un libro. E oltre a questo ti permetti di lavorare in gruppo, cosa che in Italia non ho mai fatto. Resti un altro anno come ricercatore e quanto è bella l'America, ti ripetevi. È così che fai domanda per un dottorato a Stanford, Sancta Sanctorum della Silicon Valley. Quale mondo ti si para davanti a Stanford? Beh, professori un po' con maglia trasandata, persone molto particolari, però che hanno fatto la storia dell'informatica, persone che non diresti mai, wow. E c'è una basilare differenza rispetto ai nostri? Beh, che hanno lavorato e hanno veramente realizzato qualcosa di importante. La seconda svolta arriva con una internship estiva presso Yahoo. Che effetto ti ha fatto passare dall'università al mondo aziendale della Silicon Valley? Io ho avuto la possibilità di lavorare nel Big Data System di Yahoo ed è stato bellissimo pensare di aver cambiato un sistema che impattava milioni di persone. Quando mia sorella e mia madre, per esempio, usavano l'email, sapevo che in qualche modo c'era il mio codice anche dietro. E poi da Yahoo passi a Microsoft come program manager. Consiglio a chiunque in campo software di lavorare per una grande azienda americana, ci scrivi. Qual è il valore aggiunto, Vincenzo? Impari sicuramente la gente molto brava, e oltre a questo impari anche i processi e quali sono le cose buone e quali invece quelle negative da poter poi spingere una startup. E con Microsoft trascorri alcuni mesi in Cina, un'altra straordinaria esperienza di vita e anche shock culturale. Poi al ritorno negli Stati Uniti, una partita di baseball tra i Giants e i Washington Nationals cambia per sempre la tua vita, perché nasce GoPago. Come nasce GoPago? Nasce da un home run battuto da Barry Bonds, che infranse il record mondiale di home run nella storia del baseball americano. Il mio business partner era in fila per comprare una birra e se lo perse. E quindi vi siete chiesti, ma non c'è un modo più rapido di acquistare bevande, alimenti, senza fare la fila? Sì. E così nasce GoPago. Ce la spieghi in due parole l'idea? Sì, noi alla fine permettevamo ai nostri utenti di ordinare cibo e servizi al volo, perché in città indaffarate come San Francisco o New York la gente ha veramente poco tempo da sprecare. Time is money. Mi buttai nell'ignoto e creai in prima persona qualcosa che avesse un impatto, ci racconti. Quanto è stata dura, anche in termini di sacrifici personali, mettere in piedi una startup da zero? Io dico sempre, una startup è una scelta francescana di vita. Si pensa che la startup sia un mondo fatato, pieno di soldi, di ricchezze. In realtà è un mondo veramente molto duro, di sudore e sangue e rinunce. Partite da San Francisco, poi vi estendete, colonizzate piano piano gli Stati Uniti, arrivando a Las Vegas. Qual è il segreto che rende l'America, Vincenzo, la patria mondiale di startups e venture capitalists? La ricetta è questa, cioè università, Stanford, il clima è importante, l'ambizione delle persone che ci sono e la liquidità di capitali. Nel dicembre dello scorso anno su Facebook compare un tuo post: Take good care Amazon. GoPago è stata venduta proprio ad Amazon. E tu sei pronto a realizzare il sogno successivo: tornare dopo oltre 10 anni in Italia e creare una tua startup qui. Vincenzo, cosa significa per te il concetto di give back? Beh, io sono 6 anni, per esempio, che do una borsa di studio ai ragazzi del mio ex liceo scientifico, e ho visto negli anni un progresso enorme tra i ragazzi. L'anno scorso sono andati 16esimi a livello nazionale come scuola alle Olimpiadi di matematica, quest'anno 10esimi, e parlo di un paese, Teramo in Abruzzo, che è ex mezzogiorno. Ho anche fatto un corso di 30 ore intensive di vera informatica al mio ex liceo, scoprendo dei piccoli talenti in erba. Ci sono in Italia? No, ci sono, basta crederci. In Italia la barra è molto, cioè si pensa che i ragazzi non siano bravi, quando in realtà ci sono bravissimi, ottimi ragazzi, basta crederci. Io ho fatto questo progetto, ho insegnato informatica, e poi ho portato avanti un progetto pratico per raccontare, può sembrare strano, ma la prima guerra in tempo reale. Sono 100 anni della Grande Guerra, ho voluto un po' anche raccontare una storia di ragazzi che 100 anni fa, 18 anni, andavano al fronte e avevano salvato l'Italia contro ogni aspettativa. In un periodo di sfattismo come quello attuale, piace ricordare che l'Italia invece si è salvata dal sacrificio di persone che hanno detto no sul Piave, sul Monte Grappa, qui resistiamo e andiamo avanti. Dietro al tuo ritorno non c'è solo un progetto appunto volontaristico, no profit con i ragazzi del liceo, ma c'è anche l'idea di una startup. Allora, cosa ci puoi dire di questo progetto che intendi lanciare in Italia e che tra poco lancerai? Mi piacerebbe lanciare una startup nel mondo delle cryptocurrency, valute criptografiche, diciamo i bitcoin, che sono più conosciute. È un argomento, secondo me, è molto molto innovativo e disruptive nel campo della finanza mondiale. Proprio per questo è un argomento, insomma, che va ben guardato, e sono sicuro che l'Italia potrebbe diventare la capitale mondiale in questo settore. Così come il ministro delle finanze inglese ha dichiarato che vuole fare di Londra capitale mondiale Bitcoin, io penso che l'Italia dovrebbe diventarlo. Si dice che siamo un paese dove è difficile investire, non attraiamo capitali, la burocrazia è eccessiva, e tu cosa rispondi? Io credo che più che altro vanno formati i talenti. Una volta che ci sono i talenti, persone che riescono a creare cose importanti, poi i capitali si attraggono. La nostra domanda a dritto: come vedi l'Italia, cosa c'è che non va, e una proposta concreta da cui ripartire? Come vedo l'Italia? Non la vedo bene, purtroppo. Dopo 10 anni ho visto un paese molto più povero di quello che ho lasciato. Non ho proposte concrete, a parte rischiare, a essere propensi al rischio e non adagiarsi sugli allori. Ed è qui con noi in studio e ci torna a trovare Roberto Bonzio, giornalista, ideatore e anima di Italiani di Frontiera. Buon pomeriggio, Roberto. Buona giornata, Sergio. Allora, Roberto, come abbiamo visto oggi, non parliamo di una storia di un giovane di successo tuttora all'estero, ma di qualcuno che invece ha scelto di tornare. Negli ultimi 5 anni ti sei imposto come giornalista di riferimento nel mondo degli italiani che hanno fatto la storia del nostro paese nel West americano. Roberto, quanto vedi condivisa questa voglia di Vincenzo di tornare e costruire qui? Con il progetto Italiani di Frontiera io ho vissuto un periodo lungo lì e ho avuto la possibilità di realizzare un po' una vetrina di quelli che sono gli italiani di Silicon Valley. Qual è la differenza rispetto anche all'inizio del mio progetto del 2008? Che questo ponte con Silicon Valley è sempre più un ponte di andata e di ritorno. E ovviamente il caso di Vincenzo è straordinario, però la voglia di tornare e di poter restituire al paese da cui si è partiti qualche cosa, penso che sia innata.